l'altra Europa. Erano in 40.000 a cantare nel centro di Oslo, a cantare i bambini dell'arcobaleno per punire Breivik. Questa è stata la scelta dei giovani norvegesi, proprio con questa canzone vogliamo aprire la puntata di oggi dell'Altra Europa. Siamo in diretta dal Festival del giornalismo di Perugia, una puntata live del nostro appuntamento col quale tentiamo di raccontare l'Europa anche da punti di vista diversi. L'attualità economica, politica europea viene raccontata quotidianamente da Radio 24. Il sabato noi cerchiamo di portare anche altre sfumature. Oggi sfruttiamo i tanti ospiti che sono presenti qui al Festival per parlare d'Europa, in particolare del come comunicare l'Europa e soprattutto del cosa ha oggi l'Europa da comunicare. E tanti ospiti, e ve li presenterò poi via via durante la puntata. Do intanto il benvenuto a Lucio Battistotti, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ciao Lucio, ciao, benvenuto. Buongiorno a tutti. Europa, uno dice Europa, qual è l'umore subito che ti coglie? Qual è il sentimento? Che tu l'Europa tra l'altro la frequenti da un pochino, vero? Sì, beh, la frequento da moltissimi anni perché ho una certa età, diciamo, e ho cominciato a 14 anni con la Jeunesse Fédéraliste Européenne, quindi negli anni 60, non vi dico altro per farvi paura, e quindi sono, per me l'Europa è una passione, prima, e poi è diventata anche un lavoro effettivamente. No, certo, oggi l'Europa non è bella, tra virgolette, perché l'associamo sempre, aprite i giornali questa settimana, eurofobia, euroscetticismo, Breivik, eccetera, populismi, ecco, c'è una connotazione negativa. Non parliamo poi di quello che quotidianamente sentiamo, cioè i sacrifici che ci chiede l'Europa, eccetera. Quindi la nostra presenza qui, la presenza della Commissione Europea qui a Perugia è importante perché è già il secondo anno che siamo sponsor istituzionali del Festival e riteniamo che questo Festival sia qualcosa di straordinariamente interessante. È molto giovane e diciamo, per l'Europa è importante parlare con i giovani, e una cosa come il Festival del giornalismo di Perugia, che è una creazione assolutamente originale in Europa, non ci sono altre cose di questo tipo, altri contenitori così in Europa. Ecco, era importante per noi esserci. E ci obbliga a fare che cosa? A comunicare in modo semplice. Ecco, e qui ti chiedo subito, voilà, a comunicare, ecco, in modo semplice. Se fosse l'Europa spiegata a mio figlio, tu da dove partiresti? Da una cartina geografica, dalle lingue? Cioè, qual è il cuore? Adesso mio figlio, nel senso proprio per essere basic, partire proprio dal basso per spiegare che cos'è questa Europa. Che cos'è questa Europa? Forse partirei anche da un po' di storia, magari, dalla Seconda Guerra Mondiale, ma non per fare del riducismo, dicendo che il continente europeo per un secolo e mezzo è stato teatro di guerre, gli europei sono ammazzati l'un l'altro e poi hanno deciso di non ammazzarsi più e cominciare a costruire faticosamente qualche cosa, un posto dove tu vai da uno Stato all'altro senza più mostrare il passaporto e avendo la stessa moneta. Questo è abbastanza semplice, no? Ecco, dovrebbe diventare questo posto la casa di tutti. Fa fatica a diventarlo, diciamoci la verità, perché non dobbiamo nasconderci dietro affermazioni generiche o politicamente corretta. Cioè, si fa fatica. La costruzione dell'Europa oggi è in panne. L'Europa è un po' al centro della crisi, è un attore della crisi e quasi anche è una delle cause della crisi. Ecco, bisogna trovare il modo di trovare di nuovo uno scatto in positivo. Questo credo, insomma. Tu partiresti per l'Erasmus oggi? No, certo, cioè, subito. Lo faresti in 6 mesi di scambio? Dove andresti? Magari potessi. Io andrei in Spagna perché amo la Spagna, non posso farci nulla. La prima cosa che vi dico è quella che mi viene in mente. Ma ecco, questa è una cosa, un cambiamento fondamentale rispetto a quando ho fatto io l'università. Io ho fatto l'università a Padova, scienze politiche, indirizzo economico. Quindi cioè ero naturalmente portato ad andare fuori Italia. Ebbene, era praticamente impossibile. C'erano, credo, 20 borse di studio in... Ho iniziato nel 1971, quindi insomma moltissimi anni fa, non esistevano praticamente borse di studio. Cioè, pensare oggi alle possibilità che hanno i ragazzi di oggi rispetto ad allora di uscire è straordinariamente più bello. L'altra faccia della medaglia è che quando tu terminavi gli studi in quell'epoca glaciale, diciamo, e il posto di lavoro lo trovavi, non era difficile trovarlo, mentre invece oggi abbiamo questi ragazzi che sono piuttosto, diciamo, seri, bravi, studiano, sanno le lingue, eccetera, molto più di noi, perché noi allora così masticavamo un po' di, io fondamentalmente di francese e un po' di inglese così, cioè, abborracciato. Tipo, il tedesco l'ha imparato a Jesolo per conquistare qualche... e al Lago di Garda. Al Lago di Garda, ok. Insomma, ogni generazione ha i suoi posti. E, mentre tu parlavi, vedevo a sentire fortemente Diletta Paoletti, che è, lavora all'Università di Perugia e ha questo progetto per Finestra Europa. Lei è laureata in scienze politiche. Diletta, parliamo però di questo progetto che avete presentato al Festival, e credo sia un progetto pilota molto importante per far respirare l'Europa. Sì, ciao Federico, buongiorno a tutti. Esattamente, sì, è un progetto sperimentale che è nato proprio qui a Perugia, all'università, che sostanzialmente coinvolge i ragazzi, cioè gli studenti universitari, in un progetto di comunicazione europea. Cioè loro costituiscono delle redazioni all'interno dell'università nelle quali scrivono di Europa, sostanzialmente. Questo è un intervento nuovo, perché a quanto ci risulta non c'è un qualcosa di simile, è veramente innovativo, e in effetti ha trovato molto riscontro tra i ragazzi che vogliono proprio partecipare per capire e per scrivere di Europa, sostanzialmente. E nasce una testata proprio, una testata nasce online o cartacea? Un inserto che è destinato ai media locali, sostanzialmente a quotidiani locali che ospitano il nostro inserto interamente dedicato a temi europei, una forma di comunicazione dal basso. Mm-hmm. E avete trovato qualche stratagemma per scaldare un po' l'Europa? Perché solitamente i comunicati stampa che arrivano sono abbastanza, abbastanza freddi, abbastanza, certo, istituzionali, abbastanza uguali anche, no? Alla fine nel marasma di comunicazioni, cose fondamentali anche, però un po' ci si perde, un po' perché sono appunto simili, un po' perché fai fatica a capire anche dov'è il focus della questione. È proprio così, infatti volevamo distinguerci dalla comunicazione istituzionale, che molti percepiscono come asettica e molto distante. Noi pensiamo che proprio il fatto che a scrivere siano dei ragazzi, quindi, come diceva anche il dottor Battistotti, portatori di una grande energia, di un grande entusiasmo nei confronti dell'Europa, beh, già questo possa bastare in qualche modo per scaldare un po', diciamo, l'atmosfera, e per anche trovare un linguaggio accessibile, semplice e molto diretto, sostanzialmente. C'è possibilità di vedere quello che fate o di contattarvi? Assolutamente, o di copiarvi anche, che credo che sia un progetto, infatti, assolutamente replicabile. Ci tengo a dire che altre università hanno deciso di seguire questo esempio su nostra proposta e sono diventati nostri partner proprio per replicare questo modello di comunicazione europea. Quindi all'interno del sito dell'Università di Perugia c'è una porzione dedicata esclusivamente a questo progetto, e tra l'altro ci tengo a salutare il professor Fabio Raspadori, perché l'idea è sua e nel 2008 è iniziato questo progetto, quindi è lui che, insomma, ha avuto questa idea così innovativa. Grazie davvero. E il sito, te lo ricordi al volo? webunipg.fise. Perfetto, grazie davvero. Grazie a voi, complimenti. Grazie. Tra l'altro, tornando alla commissione, qui c'è proprio un premio anche per giovani giornalisti che parlano d'Europa, quindi, certo, è comunque cuore della questione parlare bene, nel senso con professionalità, delle tematiche europee. Sì, quest'anno siamo alla seconda edizione, è un premio giovane, appunto giovane perché è per i giovani, ma anche perché è giovane di età, è al secondo anno. Seconda edizione del premio Giovani Giornalisti d'Europa. I premi saranno consegnati domenica mattina, cioè quindi domani il 29 aprile alle 11:30. E per quanto riguarda la nostra presenza, concludiamo la presenza della Commissione Europea al Festival del Giornalismo con un workshop che si chiama Europa, morte o rinascita della politica. e prima verrà fatta la premiazione dei giovani giornalisti d'Europa. Quindi, ecco, ci tenevo a dire, come giustamente dici tu, non è che non parlare bene d'Europa, parlare d'Europa, noi quello che vogliamo è che i giovani ci critichino, parlino male, magari ci diano dei suggerimenti o ci diano delle frustatine, ecco, non vogliamo la geografia. Ecco. Perfetto. Eric, è facile o difficile parlare d'Europa? Tu la conosci bene? Beh, cerco, sì, io sono un'espressione dell'Europa, sapendo che vivo da 20 anni a Roma, ma anche la mia famiglia, la mia storia familiare è una storia europea, come tra l'altro per tanti francesi che sono di origine straniere. Tanti ad esempio francesi sono di origine italiana, dunque io appunto sono un prodotto d'Europa. Non è facile di parlare di Europa in quanto, senz'altro, in quanto istituzioni, in quanto politica, perché è un po' latitante. Poi raccontare senz'altro i paesi, cioè raccontare la società italiana, questo invece è più facile. Eric Josef, tu da 18 anni vivi in Italia, sei corrispondente per Liberation e qui tra le mille cose che fai hai partecipato a questo panel su immigrazione e media, il caso Italia, giocando con le parole ma non tanto, no? Migranti, clandestini, immigrati, sono la stessa cosa, c'è differenza? Come il giornalismo e come l'Europa si sta ponendo di fronte a questa novità, che una novità non è, però poi ti accorgi che a ondate che spesso coincidono con le ondate appunto di immigrati, poi ci sono anche le ondate sulla stampa e lì c'è confusione, c'è un'informazione spesso deviata, spesso superficiale, spesso confusa. Sì, tra l'altro quando si parla di novità appunto sarà senz'altro una novità per l'Italia, ma appunto ricordavo per la Francia no, la Francia è una terra di immigrazione quasi secolare. Per l'Italia senz'altro è stato un cambiamento radicale, il paese è passato da appunto da una nazione di emigrazione, di immigrati, appunto ricordavo gli italiani in Francia, a un paese di immigrazione in poco tempo. Però anche lì oggi parlare di novità in Italia, ormai questo potevamo ancora dirlo 10 anni fa, adesso è un dato strutturale, ci sono 4,5 milioni di stranieri in Italia che sono appunto, hanno per tanti di loro non soltanto un lavoro ma una famiglia, matrimoni misti in Italia ci sono tanti, e i dati rilevano che l'Italia è un paese in cui i matrimoni misti sono tra i più alti. E poi vuol dire che anche hanno costruito famiglie, hanno bambini, e dunque è un fenomeno che è tutto sommato la novità, ormai è, almeno per i giornalisti dobbiamo avere appunto, se per una parte della popolazione ci può essere ancora questo fenomeno di novità, di difficoltà di adattarsi, penso che appunto i giornalisti dobbiamo fare lo sforzo di dire appunto che non è più una novità e raccontare appunto queste evoluzioni di queste situazioni. Quando tu parli degli italiani ai francesi, lo fai da italiano, da francese o da europeo? Lo faccio da giornalista, almeno ci provo. Cioè il giornalista è quello che è mediatore, e dunque mediatore è quello che appunto cerca di raccontare situazione, di fare da filtro per poter appunto essere compreso, capito dai suoi lettori. E ad esempio abbiamo avuto questa grande sfida per tanti anni di raccontare, cercare di raccontare il fenomeno Berlusconi ai francesi. Questo è, non so se ci siamo riusciti, però appunto questo è il nostro compito. Poi ovviamente ognuno può avere la sua visione, io senz'altro penso che le vicende italiane riguardano molto la Francia, non soltanto perché storicamente si è visto che l'Italia era in qualche maniera un laboratorio, e in particolar modo un laboratorio politico. Forse questo sarebbe da approfondire, ma penso che c'è una tale distanza molto spesso in Italia tra il paese reale e il paese legale, che il paese legale può fare degli esperimenti e che il paese reale è capace di adattarsi a questi cambiamenti. Al di là di questo, senz'altro il fatto che l'Italia è un laboratorio, ma soprattutto perché i nostri paesi, le nostre economie, le nostre società ormai sono sempre più interpenetrate, e dunque senz'altro i fenomeni che osserviamo un paese europeo hanno influenza nell'altro, e non soltanto perché c'è stato l'integrazione e la moneta unica, ma perché abbiamo le stesse sfide, e la sfida principale è di vedere che le nostre nazioni europee, che sono state abituate per secoli a essere in qualche maniera dominanti nel mondo, oggi dobbiamo affrontare non il declino, perché se utilizziamo il declino è lì che entriamo nel panico e nella provocazione di estremismo. Dobbiamo affrontare il cambiamento del mondo, il riequilibrio. E noi, prima Lucio Battistotti diceva giustamente, appunto, che cosa si direbbe a un bambino, si ricorderebbe appunto la seconda guerra mondiale. E sì, l'Europa è questa struttura, questa figura un po' strana, però che a un certo punto, in cui tutti i popoli si sono messi insieme per superare i loro odi, perché non sono le differenze, i loro odi, per mettersi insieme, per vedere che avevano degli elementi comuni, e questi elementi comuni era soprattutto la pace, superare anche i totalitarismi. E da lì hanno creato qualcosa che è eccezionale, che è un modello politico, perché malgrado tutte le nostre divisioni abbiamo un continente democratico, soprattutto dopo anche la caduta del muro di Berlino dell'89, e abbiamo un continente unito, un modello comunque economico, perché comunque è una potenza, certo, economica mondiale, una potenza monetaria, abbiamo la seconda moneta al mondo, e poi perché c'è un modello sociale, c'è un modello culturale, c'è un modello ambientale. E dunque è questo che non soltanto dobbiamo difendere, ma dobbiamo espendere. Poi parleremo anche delle elezioni in Francia. Con te prima una domanda personale, però. Cosa hai trovato a Roma che non avevi trovato a Parigi? A Roma c'è tutto, Caput Mundi, sì. C'è il centro del mondo. Vabbè, perché ci sono strati di cultura, e a Roma, appunto, se parliamo di Europa, lì abbiamo tutti gli strati dell'Europa, la costruzione del nostro mondo. E tu queste cose le dici anche ai tuoi amici in Francia? Hai ancora amici in Francia? Sì. No, spero che non mi abbiano cacciato. No, è bello, perché insomma, è vero, è una bella, prima proprio nella presentazione fuori mi parlava di Parigi, però poi si è illuminato su Roma, e mi è piaciuto questo contrasto. C'è con noi Cecilia Nesi, che parteciperà a un panel domani sul giornalismo d'inchiesta transnazionale. È autrice di un importante lavoro e che adesso ci presenta. Ciao Cecilia, benvenuta. Ciao, buongiorno. E, tra l'altro, gli ho detto, Cecilia, prima sei giovanissima, hai già fatto un sacco di cose. La risposta secca è stata, certo, ho studiato a Londra, nel senso, come visione mentale hai accelerato, o perché hai studiato qualche anno in meno di noi italiani? Credo perché ho studiato qualche anno in meno. Ah, così, ok. Degli italiani, perfetto. Sì. Allora, Cecilia, chi sei? Presentati. Chi sono? Sono una giornalista freelance, in realtà non del tutto, perché poi collaboro con una rivista qui a Perugia che è Piacere Magazine, la Free Press dell'Umbria, e nel resto del tempo lavoro a progetti di documentario, di inchiesta principalmente, e anche inchieste scritte. Quindi giochi in casa, però perché sei appunto umbra. Però con questa visione e vocazione transnazionale, cosa vuol dire realizzare un'inchiesta transnazionale? Innanzitutto significa collaborazione, perché vorrei specificare che questa mattina sono qui, ma non parlo solo per me, parlo anche per gli altri tre autori di Toxic Europe, che sono Giulio Rubino, un italiano, un ragazzo di Roma, e Delphine Reuter, che è una giornalista belga, tutti e tre freelance. Quindi significa collaborazione sia tra più giornalisti che tra giornalisti di diverse culture, diversi paesi europei, e questa è la base per poter fare queste inchieste, perché significa mettere insieme le competenze, le conoscenze, sia dal punto di vista linguistico che dal punto di vista culturale, e della conoscenza poi del territorio quando ci si deve poi muovere sul campo. Il lavoro su cui avete focalizzato appunto i vostri sforzi, le vostre energie, è questo Toxic Europe, che sarebbe? È un documentario d'inchiesta di 30 minuti che è stato prodotto all'interno di un premio che si chiama Best International Organized Crime Report Award 2011 è la sigla più lunga, Biocre, che è stato inventato da Flare Network, in qualche modo è lo spin-off internazionale di Libera, in collaborazione con Novaya Gazzetta e con l'associazione Ilaria Alpi. Il premio voleva finanziare 4 video inchieste che poi venivano presentate al premio Ilaria Alpi 2011, quindi l'anno scorso, e una di queste 4 inchieste avrebbe poi vinto questo premio, è stata la nostra, quindi poi da lì in qualche modo c'è stata una crescita esponenziale delle presentazioni, prima di tutto all'estero, poi adesso dopo un anno piano piano si arriva in Italia. Arriviamo anche noi, arriviamo, siamo un po' più lenti noi italiani, ma arriviamo. Un piccolo estratto del documentario, ovviamente siamo in radio, quindi è un estratto audio. Ci sono posti nel mondo che preferiamo abbandonare, posti che riempiamo di buchi profondi, che poi riempiamo di quello che ci disgusta, di quello che rifiutiamo, la nostra immondizia. Guardando all'intera Unione Europea, i rifiuti fantasma ammontano a 225 milioni di tonnellate, ma la quantità potrebbe essere maggiore, visto che molti rifiuti sono stati trattati solamente sulla carta. Quando on parle di criminalità dell'environnement, puisque se come le isolonde utiliscono, o allora hal criminalità, c'est-à-dire c'est une criminalité qu'on doit, étant policier, aller chercher. Si on n'a pas cette volonté de chercher, d'aller chercher, il n'y a pas de constatation. Victor Tomovski, je suis un fost général d'une armata română, en réserve, et comme tous les généraux d'une armata ou d'une serviciu secrète, a început să facă afaceri. È un assaggio del documentario, appunto, per avere un po' il sapore del lavoro fatto. Lucio, anche questo aiuta a fare l'Europa, è un modo nuovo, un modo diverso di lavorare. Beh, anche dal punto di vista giornalistico, quello che sta facendo la nostra Cecilia Anesi, credo che sia molto brava, e è qualche cosa che noi, diciamo, che l'Europa dovrebbe spingere, dovrebbe aiutare a fare. Io credo che in questa epoca di cambiamento, allora adesso vi cito un libro che ho comprato alcuni giorni fa e che amo molto, e si chiama Benvenuti in tempi interessanti. Già secondo me il titolo vale da solo l'acquisto del libro, no? E l'inizio è questo: dicono che in Cina se si odia veramente qualcuno lo si maledice così, che tu possa vivere in tempi interessanti. Storicamente in tempi interessanti sono periodi di cambiamento, eccetera eccetera. Beh, questo è un libro di un filosofo sloveno, Slavoj Zizek, che è uscito da poco in Italia e che esplora un po' il tempo dei cambiamenti di questa nostra società, soprattutto società occidentale, che ha fermenti interessanti e che soffre la crisi, insomma. Ecco, io credo che dei progetti come questo progetto, che è un progetto interculturale e fatto da giovanissimi di alcuni stati membri dell'Europa, ci mostri quali sono le vie da percorrere. Noi dobbiamo riuscire a liberare la creatività giovanile, a far sì che possa venire fuori qualche cosa di buono. Cioè, l'Europa è Europa, vale perché è una nella diversità, cioè tutte le diverse componenti chimicamente reagendo assieme possono dare dei processi interessanti, delle novità e un nuovo sviluppo. Bisogna riuscire a dare il concime giusto. Cecilia, quali sono state le difficoltà reali ma anche le opportunità reali di questo progetto, del lavorare insieme, lingue diverse, confini diversi? Allora, innanzitutto vorrei aggiungere che c'è una quarta persona in questo progetto, e senza questa persona non avremmo sicuramente potuto fare il documentario, che è Gianmarco Giometti, è stato il nostro cameraman, montatore e anche ha firmato la colonna sonora, per cui diciamo grazie a lui siamo riusciti a fare tutto, perché il progetto è stato molto low cost, e quindi questa squadra di quattro persone appunto si è mossa in più paesi. Siamo andati in Italia, in Belgio, in Lussemburgo, in Romania. E i vantaggi di lavorare in squadra in questo senso sono sicuramente di poter, nel nostro caso, aver avuto accesso a più lingue europee, per cui avere il francese grazie a Delphine, l'olandese sempre grazie a Delphine, il rumeno grazie a noi italiani che bene o male in qualche modo ci riusciamo a barcamenare, e questo è stato un primo inizio. Quello che però questa inchiesta ci ha insegnato è che non basta, essere, noi eravamo abbastanza internazionali ancora come squadra, infatti nei nuovi progetti che stiamo portando avanti abbiamo allargato le collaborazioni, perché comunque quello che abbiamo capito è che anche se poi gli autori magari non possono essere ovviamente troppi, però le collaborazioni poi sul campo nei vari paesi con altri giornalisti sono fondamentali, quindi non soltanto avere quello che viene chiamato il fixer, ma avere proprio dei collaboratori e avere possibilmente anche appunto più firme in una sola inchiesta internazionale, transnazionale, quindi più paesi. Se si arriva a 5-6 paesi europei, sicuramente anche nel caso nostro del traffico di rifiuti, noi abbiamo visto solo un esempio che è la Romania, ma c'è ancora tuttora l'idea di allargare questa inchiesta, perché ci sono altri paesi come potrebbe essere l'Albania, come potrebbe essere anche fuori dall'Europa, al Nord Africa e così via. E, Eric, tu sei transazionale dentro, cioè la tua carriera lo è. Ci sono dei rischi nel fare un giornale? Cioè, si può cadere nell'andare a cercare un linguaggio comune, che però poi vuol dire trovare un linguaggio piatto, magari quando ci si trova più giornalisti, con più lingue, con più approcci? Cioè, c'è il rischio di un livellamento verso il basso, diciamo, o è sempre un'opportunità? Ma penso che il rischio del livellamento verso il basso non è legato al fatto delle lingue, cioè il rischio appunto è, cioè non vedo il rischio in una forma di standardizzazione europea che farebbe che appunto si cerca il minore denominatore comune. Il rischio del livellamento verso il basso è già forte a livello nazionale, non c'è bisogno di aggiungere l'internazionale. Però la cosa che in effetti è interessante è di fare, e da questo appunto penso che la loro esperienza di questi giovani colleghi è molto importante, perché vediamo comunque, mentre si costruisce l'Europa, che nel spazio, nei media, comunque ha tendenza a ridursi. C'è un ripiegamento a livello nazionale di un po' tutte le testate. E non è soltanto un fenomeno italiano, è un fenomeno anche, io lo vedo in Francia, lo vedo anche nel mio stesso giornale, che pure è molto aperto. Io vedo che ad esempio il mio collega di Libération a Bruxelles, Jean Quatremer, che è appassionato di Europa, ma vuole soprattutto raccontare l'Europa nella carne di quello che succede appunto alle istituzioni europee, perché anche lì ci sono anche delle storie umane, dei scontri che sono dei scontri che possono essere legittimi. Lui ha molte difficoltà anche a trovare spazio, e dunque questo è un elemento abbastanza preoccupante. Perché comunque anche un'altra informazione, quella che avete fatto. Cecilia, in chiusura ci vuoi veramente descrivere in maniera veloce gli altri lavori che verranno presentati domani? Ricordiamo, giornalista d'inchiesta domani, vero? Sì, domani transnazionale alle 10. Alle 10 presso il Centro Servizi Alessi. Sì, forse in due parole possiamo spiegare che cos'è Toxic Europe, visto che comunque non l'abbiamo detto. Noi non abbiamo seguito i rifiuti verso la Romania, perché questo è molto complicato. Abbiamo seguito un altro consiglio di due magistrati, no? Falcone e Borsellino, seguito i soldi. Quindi abbiamo fatto una radiografia delle imprese italiane, o comunque costituite da italiani, che in Romania gestiscono i rifiuti e gestiscono le discariche principali della Romania. Tra l'altro, una di queste aziende è la municipalizzata di Perugia, visto che siamo a Perugia. Le altre due inchieste sono The Proxy Platform, che è stata redatta da OCCRP, che è Organized Crime and Corruption Reporting Project, è una associazione di giornalismo d'inchiesta basata nei Balcani, che fanno inchieste molto importanti sul crimine e la corruzione, e presenteranno questa inchiesta, che è una web platform che si trova online e praticamente viene presentato come in tempi di crisi durante l'ultimo anno in Est Europa, mentre appunto la gente non riusciva ad arrivare a fine mese, c'erano enormi capitali che si muovevano tra politici e esponenti della criminalità organizzata, praticamente in maniera appunto virtuale e parallela al sistema poi di vita della gente comune. La seconda inchiesta è In the Name of the State, e è fatta da due giornalisti sloveni. Blaž Zgaga sarà domani mattina qui per presentarla. È un'inchiesta veramente molto grande, molto impegnativa, infatti è una trilogia di libri. E loro sono riusciti tramite un Freedom of Information Act che purtroppo noi in Italia non abbiamo, quindi mm-hmm. speriamo di poter lavorare per ottenere questa possibilità anche in Italia. Sono riusciti ad avere più di 6.000 documenti dal governo sloveno e analizzando questi documenti per più di un anno sono riusciti a scoprire come durante la guerra in ex Jugoslavia c'erano enormi quantitativi di armi che venivano contrabbandate e portate al porto di Capodistria tra il 91 e il 92 per poi venire scaricate e fatte entrare in Croazia e in Bosnia e Erzegovina con il beneplacito di alcuni paesi europei e ovviamente con il guadagno di alcune criminalità organizzate europee. Perfetto, grazie davvero, complimenti a te e a tutti i tuoi collaboratori. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Come ti sei ridotta in questo stato? Caparezza con il suo goodbye malinconia è diventata un po' una bandiera di chi si stanca, di chi fisicamente o anche solo così con la testa cerca di andare oltre confine. Caparezza sarà qui questa sera alle 21 al Teatro Morlacchi, sarà intervistato così sul suo eretico tour, ma soprattutto sulla sua testa eretica. Ma Caparezza è anche qua con noi l'altra Europa. Ciao Michele. Eccomi qua, ciao. Ciao. Sono io, sono lo sbandieratore dei difetti italiani. il cantore di questa Italia in movimento. E la tua provincia, partiamo dalla tua Puglia e andiamo nella tua Europa. E c'è più provincia o c'è più Europa in te, nella tua Guarda, testa? Posso dirti una cosa molto strana. A volte sembra che non ci sia questa grande differenza, perché mi sono ritrovato un giorno a Portobello Road a Londra. Credo di aver fatto soltanto 400 metri perché ero continuamente fermato da molfettesi e quindi io non ho trovato più neanche questa differenza. A un certo punto si mischia tutto perché sembra che la provincia in qualche modo si trasferisca nelle metropoli, no? E quindi se dovessi fare una differenza, tolta la faccenda migrazione, credo che sia, almeno per quanto riguarda il mio modo di scrivere, molto più facile nutrirsi di paradossi in provincia rispetto che in una situazione europea più vasta, perché quello che accade spesso nella provincia è frutto dell'emulazione di qualcosa che magari non fa neanche parte della cultura stessa della provincia. Io faccio sempre un esempio così, perché a volte poi ci si perde nei paroloni, che ne so, forse ha più senso farsi una lampada a Oslo piuttosto che a Molfetta, però avviene anche a Molfetta e questa cosa però diventa un paradosso perché si tratta di una città dove c'è il sole tutto l'anno. Quindi. Tra l'altro il tuo pubblico, Caparezza, è proprio quello della generazione Erasmus, no? Quindi sono sì. avantissimo rispetto a noi che siamo anche un po' più grandicelli. Sì. E tu stesso so che usi l'Europa come nutrimento, nel senso che fai le tue piccole fughe nelle capitali europee per liberare la testa, credo, prevalentemente. Ma un po' sì, diciamo che io per liberare la testa principalmente mi eclisso, quindi idealmente andrebbe bene qualsiasi posto. Difatti non riesco quasi mai a scrivere una canzone mentre sono per esempio in tour, perché non lo so, ho bisogno proprio a un certo punto di erigere un muro e ritornare proprio in uno stato salviminiano, utilizzo salviminiano riferendomi a me, non è che tanto Salvemini, cioè ho bisogno di essere Michele Salvemini, punto e basta, di vivere un anno senza i palchi e senza tutto quanto. Per quanto riguarda poi la mia fuga in altre zone che non siano l'Italia, mi serve molto per capire quali sono le altre possibilità di vita, di cultura, cioè, credo che faccia parte insomma del nutrimento culturale che ognuno dovrebbe mantenere, dovrebbe avere, dovrebbe di cui ognuno dovrebbe servirsi, ecco, perché quando si va, per esempio, io quando sono andato a Londra la prima volta, e sono uno di quelli che ci è andato tardi, cioè non ho subito la fascinazione di Londra quando ero adolescente e tutti andavano a Londra e tornavano con le creste, anche quelli con i capelli corti, e che la facevano stare un po' sulle palle anche, perché andavano tutti a Londra e tornavano tutti sempre con i tatuaggi, le creste, dicendoti che si erano divertiti un mondo e che si erano mantenuti lì facendo i camerieri. Questa è proprio la favoletta di Londra. Quindi io ho evitato questa prima ondata e ci sono andato in realtà... No, dico, hai evitato sia la cresta, perché tutti qui ti stiamo immaginando in questo momento con la cresta e non ce la facciamo. Viene da vomitare soltanto a pensarci. Però quando sono andato ero un grandicello, cioè, ti sto parlando di tre anni fa. E in realtà sono rimasto affascinato, e sono rimasto affascinato da italiano, penso, perché questa fascinazione che ho provato io, secondo me un'altra persona di altre città europee non l'avrebbe provata, dal melting pot, cioè dal fatto che a Londra la convivenza tra varie, chiamiamole etnie, era perfettamente normale, c'era un'integrazione pazzesca, e mi sono vergognato di averla pensata pazzesca, per cui ho cominciato a pensare al perché mi ero sorpreso di questo, e là mi sono risposto, forse perché sono italiano, forse perché vengo da un paese dove viene spesso, per esempio, demonizzata l'immigrazione, no? Invece lì era perfettamente normale. Certo. Questo per dirti la prima differenza che mi è saltata all'occhio. La seconda cosa che mi ha fatto riflettere è stata poi quella che si è assunta la paternità di Goodbye Malinconia, cioè il fatto di aver incontrato con tutti i migranti che sono lì, e tra tutti i migranti che sono lì, una stragrande maggioranza di italiani. Mm-hmm. Grazie davvero, Michele. Speriamo che sia un po' più eretica anche questa Europa, che credo abbia bisogno anche di qualche pensiero alternativo, che solitamente è movimento di nuove idee, nuove opportunità, nuove emozioni anche. Ciao, ci vediamo questa sera qui alle 21 a Perugia. Buon viaggio. Ok, ciao. Ciao. Abbiamo veramente 2 minuti per chiudere questa puntata. Una domanda a Eric. Eric, cosa succederà in Francia? Sarà una Francia nuova, diversa, quella che uscirà dalle elezioni, e soprattutto sarà un banco di prova anche per l'Europa? Beh, senz'altro un banco di prova per la Francia e per l'Europa. Una Francia diversa ovviamente dipende dall'esito del voto, vediamo un po'. Senz'altro queste elezioni hanno segnato un elemento di rottura, perché abbiamo visto comunque un avvicinamento, già un'affermazione dell'estrema destra e un avvicinamento delle tematiche dell'estrema destra e di quelle della destra, e dunque vuol dire che senz'altro avremo una Francia che avrà ancora più attese sul cambiamento, sulle risposte da dare, e il punto forte è di rendersi conto che oggi ogni governo nazionale non ha più esattamente tutti gli strumenti per poter dare le risposte ai cittadini, e da lì che dobbiamo passare e pensare europeo. Ti aspetto all'Altra Europa nelle prossime settimane per commentare insieme le elezioni. E un ultimo brano musicale, la musica di un pianoforte, riusciamo a farlo partire per ringraziare Maurizio Mastrini, che è qua con me. Ciao Maurizio. Ciao. Amico. Ciao. Dell'Altra Europa, anche la cultura portata in Europa, vero? Sì, io sto sperimentando questo viaggio in Europa attraverso gli istituti di cultura con la mia musica, con i miei concerti. Prossimo appuntamento? È Copenaghen, 22 di maggio. E noi ci saremo con l'Altra Europa. Un grazie anche a Lucio. Buon lavoro e complimenti per tutto quello che state facendo per rendere più emozionante l'Europa. Io spero che, parafrasando Caparezza, da qui non se ne vadano tutti. Stiamo qua. L'appuntamento con l'Altra Europa è sabato prossimo. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, e grazie a tutta la squadra. Non c'è tempo per ringraziarla, ma come sempre è essenziale per il programma. Ciao.